Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Fondo Monetario Internazionale abbia corretto le sue previsioni sulla crescita in Italia quest'anno, nel 2017, ma non corretto di un'antichia, come si dice a Roma. Ma c'è stato un lancio nello spazio, nel senso che siamo passati a gennaio da una previsione dello 0,7 per la crescita di quest'anno a giugno a una previsione dell'1,3. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, secondo quanto dice Gentiloni, con le previsioni riviste dal Fondo Monetario Internazionale rispetto alla nostra crescita, dice che sono notizie da lancio nello spazio, quindi ci sentiamo lanciati nello spazio, speriamo che sia davvero così. Intanto noi rimaniamo con i piedi per terra per il momento, che effetto notte con tutte le notizie di oggi. Parleremo naturalmente di politica, del post voto, le analisi sono state fatte sufficientemente, però ci sono delle novità con anche dei riposizionamenti, per esempio Renzi che apre a Pisapia e a una coalizione di centrosinistra. Poi bisogna dire che evidentemente Berlusconi ha dimostrato di essere ancora in gioco, che non è una cosa da poco. Delusione per quanto riguarda Grillo, Movimento 5 Stelle, comunque insomma, diciamo, stiamo parlando di una realtà adesso locale, amministrativa. Poi bisognerà vedere per l'appunto come si riposizionano tutti, per esempio la sindaca Raggi che ha chiesto di parlare con il prefetto per una moratoria sui migranti. Varie le novità, insomma. Poi ci occuperemo di vaccini, perché a proposito di dibattito politico prosegue sempre acceso questa discussione accesa, e vi farò sentire una parte della dichiarazione di Zaia, il governatore della regione Veneto, che oggi era effetto giorno, il quale dice che ha intenzione di impugnare il decreto legge sulle vaccinazioni obbligatorie alla Corte Costituzionale. Lo sentiremo e poi risponderà come ospite qui a Effetto Notte il sottosegretario alla salute Davide Faraone. E poi parleremo di una sentenza che davvero potrebbe essere una svolta nei confronti dell'atteggiamento della giustizia e della politica relativamente ai femminicidi e alle violenze contro le donne. Veramente potrebbe essere considerata una sentenza rivoluzionaria, a proposito di una donna che era stata uccisa dal marito dopo che l'aveva denunciato 12 volte alla giustizia e non aveva avuto esito. Bene, sono stati condannati quei magistrati che avrebbero potuto fermare il marito assassino. Abbiamo un sacco di cose dunque di cui parlare. Vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, per le vostre osservazioni, così come il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre quello 349-238-6666. 349-238-6666. Vediamo che giornata è stata. Brexit e la prima ministra May annuncia: i negoziati cominciano la prossima settimana, i tempi non cambiano. Elezioni amministrative, dopo il primo turno Renzi frena su Prodi, no all'Unione Bis, dice, ma apre a Pisapia che lancia la kermesse di campo progressista. Grillo difende Di Maio dicendo il PD dove non è crollato si è nascosto. Gentiloni intanto esulta sulle previsioni del Fondo Monetario sul PIL 2017 e rilancia le riforme. Roma, la sindaca Raggi scrive al prefetto e chiede una moratoria sui nuovi arrivi dei migranti nella capitale. Femminicidi e giustizia, uccisa dal marito dopo aver denunciato la violenza alla giustizia per 12 volte senza esito, condannati due PM che non intervennero. Sanità, Napoli, la procura apre un'inchiesta sulle formiche all'ospedale San Paolo. Vaccini, il presidente della regione Veneto, Zaia, impugna il decreto legge varato nei giorni scorsi davanti alla Corte Costituzionale. A Effetto Notte il sottosegretario Faraone. Scontro tra treni in Puglia, l'incidente su una linea a binario unico in Salento, 15 i feriti. Il rapporto demografico, in calo i residenti in Italia, si spopola il mezzogiorno, sono 5 milioni gli stranieri, diminuiscono gli italiani e le nascite vanno giù. Sport, i campioni dell'NBA boicottano Trump, i Golden State Warriors non andranno dal presidente e Ronaldo è nei guai col fisco. Partiamo dunque per questo riassunto della giornata dalle notizie che arrivano dalla Gran Bretagna sulla Brexit. I tempi della Brexit non cambiano, i negoziati cominceranno la prossima settimana. Questo lo ha assicurato la prima ministra britannica Theresa May al presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa all'Eliseo in Francia, appunto. E poi la politica italiana, a due giorni dalla prima tornata delle amministrative, le posizioni degli schieramenti non sono ancora definite alla ricerca di nuove alleanze e delineazione di programmi. Le elezioni si allontanano e Matteo Renzi cerca una strategia a lungo termine. Il segretario PD interviene a Repubblica TV e smentisce che fosse lui a volere le urne in autunno e soprattutto non abbassa la guardia sul Movimento 5 Stelle. Non diamo per morto Grillo. Il Movimento 5 Stelle c'è, esiste, è una forza politica. Non so quanta vita abbia ancora davanti. Il vero nodo è quello delle alleanze. Renzi non chiude la porta a Giuliano Pisapia qualora si dovesse volgere al maggioritario dopo il fallimento del Tedeschellum, ma la chiude agli ex PD. L'ipotesi di dialogare con D'Alema mi sembra, come dire, negata dalla realtà. È evidente che hanno fatto una scelta loro, perché nessuno li ha cacciati. Altro capitolo è quello che si consuma nell'aula di Montecitorio, dove viene messa la fiducia sul disegno di legge di riforma del processo penale, con il Movimento 5 Stelle che espone cartelli con scritto «Distruggono la giustizia». Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo all'inizio, ne torneremo a parlare tra poco, così come ci occuperemo della sterzata della prima cittadina di Roma, la sindaca Raggi, sindaca 5 Stelle, sui migranti. Ha detto: chiedo una moratoria, e questo l'ha scritto la Raggi in una lettera inviata al prefetto della capitale per fermare il flusso dei migranti. E in merito alla crisi dei migranti, oggi Bruxelles ha deciso di lanciare le procedure di infrazione per Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Bruxelles bacchetta Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca per i mancati ricollocamenti dei profughi da Italia e Grecia. Ad annunciare il provvedimento è stato il commissario europeo Dimitris Avramopoulos. The Commission has decided to launch infringement procedures. La Commissione europea ha deciso di lanciare procedure di infrazione verso questi stati, dice il commissario. Spero che possano riconsiderare la loro posizione. Quello che ora rischiano è di vedersi tagliare i fondi europei, dei quali questi tre paesi sono i più grandi beneficiari. Un ricatto, secondo il ministro degli esteri polacco. Dall'Italia finora sono stati ricollocati 6.500 migranti, di cui ben 2.500 in Germania. Il problema per l'Italia, in realtà, è anche che non ci sono molti migranti che hanno le caratteristiche per essere ricollocati negli altri paesi in Europa. La maggior parte di chi arriva nel nostro paese, infatti, sono africani subsahariani e quindi fuori dalla accordo di ricollocamento. E una modifica del Trattato di Dublino, che sarebbe quello che serve all'Italia, al momento non è all'ordine del giorno sui tavoli di Bruxelles. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo all'economia. La revisione da parte del Fondo Monetario della crescita italiana fa sospirare positivamente il governo. Abituato recentemente a variazioni dello 0, del PIL, le nuove stime del Fondo Monetario sorprendono positivamente il governo. Previsioni da lancio spaziale le definisce allora il presidente del Consiglio Gentiloni, subito dopo aver visitato gli stabilimenti Avio, dove si costruisce il lanciatore europeo Vega. Ma c'è stato un lancio nello spazio, nel senso che siamo passati a gennaio da una previsione dello 0,7 per la crescita di quest'anno a giugno ha una previsione dell'1,3. C'è la consapevolezza, aggiunge Gentiloni, che c'è ancora un enorme lavoro da fare e che queste grandi cifre non si traducono immediatamente in risposte alle esigenze delle famiglie e del lavoro per i giovani. Soddisfatto anche il ministro dell'economia Padoan. Quelle del Fondo Monetario sono previsioni addirittura superiori alle nostre, spiega Padoan. Capitolo Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, quindi. La soluzione è ormai prossima, conferma Padoan, e non contemplerà alcuna forma di bail-in, così come obbligazionisti senior e depositanti saranno in ogni caso pienamente garantiti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora questa notizia che, appunto, vi dicevo, potrebbe fare giurisprudenza, bisogna augurarselo, a proposito di femminicidi e giustizia. La Corte d'Appello di Messina ha condannato due PM che lasciarono nella possibilità d'agire un marito violento denunciato 12 volte dalla moglie Marianna Manduca, poi uccisa dall'uomo. Saverio Nolfo, 10 anni fa a Palagonia, in provincia di Catania, appunto, uccise la moglie. La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei PM che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo. Nolfo è in carcere, dove sconta 20 anni per omicidio. Condannata a risarcimento delle parti civili anche la presidenza del Consiglio dei Ministri. E poi, vi dicevo, torneremo a parlare di questa sentenza che si può ben dire rivoluzionaria. I vaccini, che non smettono di far discutere, il decreto sulla obbligatorietà delle vaccinazioni. Oggi il presidente del Veneto ne ha annunciato il ricorso. Tra poco sentiremo quindi le sue dichiarazioni, come dicevo all'inizio, e poi in risposta ci sarà ospite il sottosegretario alla salute Faraone. E ora l'inchiesta della Procura di Napoli e le condizioni dell'ospedale San Paolo. La procura apre un'inchiesta, il ministero invia gli ispettori e la politica tutta si indigna. Il caso delle formiche nelle lenzuola di una donna ricoverata all'ospedale San Paolo di Napoli diventa l'ennesimo scandalo di una sanità, quella campana, troppo a lungo nelle mani di affaristi e camorristi, denuncia il presidente Vincenzo De Luca dopo aver visitato le corsie incriminate. La sanità della Campania è un disastro. È stata per tanti decenni al servizio della politica politicante, inquinata da delinquenti, da camorristi. Prima che l'indagine interna della struttura e quella di ispettori e inquirenti arrivino ciascuna alle proprie conclusioni, nei corridoi si cercano giustificazioni nei lavori in corso, in problemi con alberi che sporgono troppo e col richiamo di sacche ricche di glucosio. Ma sarà la task force del ministero ad individuare le eventuali responsabilità di un fatto che la stessa Beatrice Lorenzin definisce indegno. C'era un lavoro all'interno del reparto e poi hanno trovato queste lenzuola infestate in un magazzino. Adesso è mandato la task force ovviamente per vedere tutte le responsabilità. Nell'ospedale, dopo il clamore della foto di quel braccio circondato da formiche, la bonifica è subito partita, ma questo, ripetono ora in tanti, è un problema che in realtà va avanti da troppo tempo, proprio come i mali della sanità campana. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca. Scontro frontale tra due treni delle Ferrovie Sud-Est sulla tratta binario unico tra Galugnano e San Donato in Salento, Puglia. 10 feriti non gravi è il primo bilancio, a bordo un'ottantina di passeggeri, tra i quali molti turisti. L'anno scorso, il 12 luglio del 2016, vi ricordate, un altro scontro frontale sulla tratta binario unico della ferrotranviaria tra Andria e Corato provocò 23 morti e 50 feriti. E adesso la notizia che ci porta a Pisa, sempre di cronaca, da quanto emerso si tratta di uno dei responsabili della rapina a uccidere, che è stato ucciso durante una rapina a Pisa in una gioielleria. Questo secondo una prima ricostruzione. Il gioielliere avrebbe reagito al tentativo di rapina, un secondo bandito sarebbe riuscito a fuggire ed è ricercato. L'allarme è scattato poco prima delle 20. Secondo le prime testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero stati armati, ma non è ancora chiaro se le armi fossero vere oppure no. E poi il rapporto demografico sull'Italia: la popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2016 era pari a 60.589.445, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, quindi l'8,3%, lo comunica l'Istat nel bilancio demografico. Prosegue quindi nel 2016 il calo dei residenti già riscontrato nel 2015. Il saldo è negativo con la flessione della popolazione di cittadinanza italiana, meno 96.976, mentre quella straniera aumenta di 20.870 unità. Continua poi dal 2008 il calo delle nascite e per il secondo anno di fila i nuovi nati sono meno di 500.000. Per chiudere, lo sport, due notizie che diciamo sfiorano lo sport perché da lì vengono i protagonisti, ma poi diciamo praticamente passano in altri ambiti. Guai anche grossi in vista per Cristiano Ronaldo. La procura di Madrid lo ha denunciato per una presunta frode fiscale per il mancato pagamento di 14,7 milioni di euro sui diritti d'immagine al fisco spagnolo. E poi niente ricevimento alla Casa Bianca per celebrare la vittoria per protesta contro il presidente Trump. Questa è la scelta clamorosa dei Golden State Warriors, stiamo parlando di pallacanestro, che stanotte hanno conquistato il titolo NBA. Di questo poi torneremo a parlare come delle altre notizie dopo la viabilità. Cominceremo come sempre ad approfondire alcuni argomenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Per esempio, Walter dice: lancio nello spazio perché la crescita prevista dell'Italia passa da più 0,7 a più 1,3. E come vanno gli altri paesi? Certo, dice Walter, una crosta di formaggio dopo anni è meglio di niente. Mentre Clotilde critica Renzi sulle aperture, vi dicevo di questa apertura a Pisapia, dice: non apre la porta di casa sua, la chiude a quattro mandate per qualche mese perché non tace, ancora non ha capito che il vero problema del PD è lui, provare per credere. Direi che ci sentiamo tra pochissimo e cominciamo ad approfondire proprio partendo dalla politica italiana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, le notizie, come sempre, ve le ho riassunte, diciamo le più importanti della giornata dall'Italia e dall'estero, nella prima parte, quindi ricordatevi puntualmente di accendere alle 21, stiamo sempre insieme sino alle 22, Roberta Giordano sempre con voi. Adesso cominciamo allora con alcuni argomenti e con gli ospiti. Già vedo diversi vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche al numero per WhatsApp ed SMS che è il 349-238-6666. Per esempio, a proposito della politica, Cristiano dice l'inizio di una sterzata destra che gradualmente, a proposito di Renzi, cioè che inevitabilmente prenderà sempre più consistenza. Renzi, che apre a Pisapia, è come il mendicante dal sorriso falso che accetta una moneta, ma in cuor suo vorrebbe le belle provviste di Silvio, dice. E poi Danilo fa una previsione, che poi dopo la nostra Barbara Fiammeri ci dirà quanto fondata, dice, scrive, si voterà nel 2018 in primavera, non vincerà nessuno dei contendenti, Mattarella incaricherà Mario Draghi di formare un governo, scusate, che avrà il sostegno trasversale di PD e Forza Fininvest, dice Danilo. E infatti stiamo per parlare di politica italiana a due giorni dal voto amministrativo, dal primo turno, perché poi sapete che il 25 ci sono i ballottaggi, quindi il secondo turno, ma intanto, se non avete acceso puntualmente le 21, questi fatti principali. Renzi apre a Pisapia e frena su Prodi, dice no all'Unione Bis, Grillo blinda Di Maio, lo difende dalle critiche del PD, Gentiloni intanto rilancia sulle riforme. E poi sanzioni dell'Unione Europea sui ricollocamenti, Praga dice pronta a difendersi, e intanto la sindaca di Roma Raggi chiude i campi Rom, decide di chiudere i campi Rom e scrive al prefetto chiedendo una moratoria sui nuovi arrivi di migranti. Uccisa dal marito, condannati due PM che non intervennero, lei per 12 volte l'aveva denunciato alla giustizia senza esito, ne parleremo, è importante questa sentenza. In calo poi i residenti in Italia, a proposito del rapporto demografico dell'Istat, si spopola il mezzogiorno, sono 5 milioni gli stranieri, meno italiani, giù ancora le nascite. E poi la prima ministra britannica May in difficoltà per il governo, apre al Labour sulla Brexit, dice da Macron, oggi era in Francia, a Parigi, dice la prossima settimana via ai negoziati per la Brexit. E poi c'è l'antimafia che, a proposito del caso Riina, la presidente dell'antimafia Bindi, della commissione antimafia parlamentare, dice è assicurata a lui una vita dignitosa, rimane il capo di Cosa Nostra, quindi è pericoloso e resta lì dov'è. A proposito di vaccini, il Veneto di Zaia impugna il decreto, lo impugnerà davanti alla Consulta, anche la Liguria lo segue. E poi Cristiano Ronaldo nei guai col fisco, ha evaso le tasse per 14 milioni. Dicevamo quindi delle elezioni amministrative di cui si è parlato già ampiamente. Nel primo turno, in attesa dei ballottaggi nei capoluoghi, il centrodestra è avanti in 13 città, centrosinistra in 6. Il fronte, poi c'è questo caso di Asti, un po' misterioso, perché prima sembrava che dovesse esserci il ballottaggio il 25 tra un esponente del centro-sinistra e uno del centro-destra. Poi invece nel tardo pomeriggio sembrava che fosse il movimento, quello del Movimento 5 Stelle, ad affrontare il centro-destra. Adesso la situazione è rimasta sospesa. Vabbè, comunque il fronte Forza Italia Lega è riuscito sicuramente a serrare i ranghi dei propri elettori. In sintesi, cresce l'astensionismo, con l'affluenza che rispetto al 2012 cala del 66,8% dal 66,8% al 60,1%, colpisce di più questo astensionismo, il Movimento 5 Stelle e il PD anziché il centrodestra. Fin qui quindi la partita delle amministrative 2017 l'ha vinta nei 25 capoluoghi il centrodestra unito alla Lega, ma le coalizioni centrosinistra guidate dal PD hanno tenuto bene nei 141 comuni sopra i 15.000 abitanti, invece il Movimento 5 Stelle per il momento si accontenta di 9 ballottaggi minori. Ma ciò che è particolarmente interessante, al di là dell'analisi stretta sul voto, sono un po' i riposizionamenti. C'è questo intanto ritrovato idillio tra Forza Italia e Lega, anche se per il momento a livello amministrativo. Poi lo vedremo appunto alle politiche, nel senso che sembrerebbero sempre più lontane dopo il naufragio del Tedeschellum, della legge elettorale sulla quale sembravano d'accordo i quattro maggiori partiti. Poi ci sono le aperture di Renzi a Pisapia e quindi ci potrebbe essere un ulteriore ritorno alla ribalta di Pisapia, ex sindaco di Milano. E poi c'è anche Berlusconi, che ha dimostrato insomma di essere ancora in gioco, come l'araba Fenice. Pisapia, tra l'altro, ha lanciato una kermesse il 1° luglio a Roma, dice, per tutti coloro che vogliono fare parte di una coalizione del centrosinistra. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri. Cara Barbara. Buonasera. Quanta carne, è vero, diciamo, al fuoco o verdura, secondo, diciamo, uno che preferisce. Io sentirei Brunetta di Forza Italia, intanto, che cosa ha detto. Dall'analisi attenta dei risultati emergono con chiarezza alcuni fatti. Il centrodestra unito vince, all'interno del centrodestra Forza Italia traina tutta la coalizione e soprattutto le liste civiche, che all'interno del centrodestra sono in misura rilevantissima e rappresentano un pezzo di elettorato assolutamente determinante. E poi Renzi, oggi la Repubblica TV, intervistato da Giannini, sentiamo cosa ha detto a proposito della soddisfazione o meno dei risultati di queste amministrative. Ma lei è contento di questo risultato? Io dico che sì, certo, nel senso che il risultato, non direi che dal punto di vista politico è sostanzialmente un pareggio tra centrosinistra e centrodestra il primo turno. Si va ai rigori. Adesso c'è la lotteria dei rigori, perché il ballottaggio è quella che i suoi colleghi sportivi chiamano lotteria dei rigori. È difficile capire come andrà a finire, nel senso che ci sono realtà totalmente diverse. Ancora Renzi, dicendo, il quale, insomma, nonostante probabilmente, insomma, sembra piuttosto deludenti almeno in queste amministrative i risultati del Movimento 5 Stelle, però avverte, Grillo non è mica morto. Le elezioni politiche nazionali sono altra roba e le dico, non diamo per morto Grillo, nel senso che il Movimento 5 Stelle c'è, esiste, è una forza politica, non so quanta vita abbia ancora davanti. Se lei pensa UKIP, vale a dire quel partito inglese Farage, che ha vinto le elezioni europee nel suo paese nel 2014 con Farage, che ha concorso a vincere il referendum nel 2015 sulla Brexit, che poi 2016, chiedo scusa, poi nel 2017 credo che sia andato al 3%. Barbara Fiammeri, quindi hai sentito appunto l'analisi del voto già ieri e insomma subito dopo le elezioni del primo turno sono state fatte. Ora di queste dichiarazioni e di come si stanno scaldando i motori, anche se dicevamo il voto ormai è più o meno impossibile, c'è qualcuno che sposa poi la tesi di quell'ascoltatore sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice Franco, Danilo ha ragione, elezioni 2018, niente di fatto e Mattarella in carica a Draghi. Cosa ti sembra, fantapolitica? Ma allora cominciamo a dire che nel 2018 bisogna vedere se c'è una maggioranza, perché appunto in carica Draghi, comunque qualunque presidente del Consiglio ha bisogno di una maggioranza per governare, punto primo. Punto secondo, ricordo che il mandato di Draghi scade nel 2019. Quindi sarebbe indisponibile. Allora, sulla carta sarebbe indisponibile, poi uno si può sempre dimettere, potrebbe anche decidere questo, però insomma mi sembra leggermente prematuro ipotizzare quindi, un quadro del genere. Quindi stiamo all'oggi. Ma è evidente, come diceva giustamente, come osservava il nostro ascoltatore, è che ci avviamo verso una situazione molto complicata di governabilità, soprattutto in assenza di una legge elettorale maggioritaria, come ormai sembra scontato. E quindi noi ci ritroveremo molto probabilmente a votare con i due sistemi diversi, a Camera e Senato, che sono comunque due proporzionali, poi con maggioranze probabilmente diverse, perché diverse sono le soglie di sbarramento tra Camera e Senato, e quindi, come dire, l'ingovernabilità sembra forse il dato più certo rispetto a tutta questa incertezza. Per quanto riguarda invece i risultati, ecco, torniamo al presente, di queste elezioni amministrative, mi sembra che più che un pareggio, come ha detto Renzi, cioè il PD in realtà arretri pesantemente, soprattutto nelle cosiddette zone rosse, no? Sia in Toscana che in Liguria, cioè tra due settimane il centro-sinistra rischia di perdere due roccaforti, quali sono Genova ma anche La Spezia, cioè sono città rosse da sempre. E quindi in quel caso non credo che Renzi potrebbe ancora parlare di pareggio, e non mi sembra di poter attribuire ai rigori, per usare la metafora calcistica dell'ex presidente del Consiglio, della lotteria dei rigori, perché qui in realtà non sono rigori, cioè c'è una partita in corso ancora, siamo semmai a un secondo tempo questo, e quindi non c'è una lotteria, ci sono degli elettori che decideranno chi diventerà il loro sindaco. Penso che indubbiamente queste elezioni porteranno a una riflessione all'interno delle varie forze politiche e delle varie coalizioni sulla carta. Renzi faceva riferimento a Pisapia, appunto, i nostri ascoltatori sostengono che sia una falsa apertura. Io non credo che sia una falsa apertura, ma lo dico non, come dire, per essere buona con Renzi, ma perché penso che per ragioni di opportunità uno cerca le alleanze dal momento che non ha una legge maggioritaria che favorisce il partito, quindi e non penso che Renzi creda di poter raggiungere il 40% previsto da quel che resta dell'Italicum, ma quindi immagino che in qualche modo le alleanze possano essere utilizzate, soprattutto con questo sistema elettorale. Perché A questo proposito, Barbara, ti faccio sentire Renzi sul possibile dialogo con Pisapia, poi mi dirai un po' se è un po' una strategia la sua dei due forni, tenersi buono da una parte Berlusconi con Forza Italia, dall'altra però aprire a Pisapia il suo campo progressista. Sentiamo. A sinistra c'è uno schieramento che è il centro-sinistra europeo, che è disponibilissimo a dialogare con Pisapia, con la Boldrini, con mi metta tutti i nomi che vuole. L'ipotesi di dialogare con D'Alema mi sembra, come dire, negata dalla realtà. È evidente che hanno fatto una scelta loro, perché nessuno li ha cacciati, Giannini, nessuno li ha cacciati. Ah, tra l'altro vedo Pisapia, poi magari vediamo se facciamo in tempo a alzare un po' l'audio, si sta preparando lì sulla 7 di martedì. Comunque, Barbara, che dici? Tiene un piede in due scarpe? Cioè, io credo molto difficile che possa esserci una grande alleanza anche con gli ex PD, ma perché lì... Mi permetto di dire, pur non essendo amica di nessuno di costoro, che ci sono dei problemi di carattere personale, parliamoci chiaro, perché insomma che adesso D'Alema si metta a fare il cavaliere della sinistra, insomma, quando in passato era osteggiato alla sinistra degli allora DS, PDS e quant'altro, perché appunto occhieggiava anche lui a Berlusconi, insomma fa un po' sorridere sinceramente. Diversa invece è la partita che si gioca a Pisapia, che non a caso ha parlato servirebbe qualcuno super parte, se ha fatto il nome di Prodi. Però lì lui ha detto ci metterei la firma Prodi, sì, come presidente, sì, del però Consiglio. In questo senso do ragione anche a Renzi quando dice tutti ricordano l'Ulivo e si dimenticano dell'Unione, cioè l'Unione è stata un disastro, c'era sempre Prodi, nel senso che era un insieme, una cozzaglia, possiamo così definirla, di tante sigle, di partitini a sinistra dell'allora, non mi ricordo più in quale fase fossimo, PDS, DS, non ricordo bene, con Margherita, e quindi era un insieme di partiti che poi produsse crisi dietro l'altro, con rincorse del singolo senatore che minacciava di votare contro i vari. Quindi Prodi, secondo te, per chiudere, perché proprio siamo in chiusura, Barbara, non sarebbe il vero ponte tra il centro del centro-sinistra e ciò che è più a sinistra? Non sarebbe l'unico a poter mettere insieme queste diverse anime? Io sinceramente mi auguro, tanto per il centro-sinistra che per il centro-destra, che si guardi un po' avanti, perché insomma sempre riandare con lo sguardo a ritroso. Mi sa che si cammina con lo sguardo indietro. Comunque, per il momento noi andiamo avanti, anche la trasmissione va avanti. Grazie Barbara Fiammeri, a presto. Grazie a voi. Ciao cara Barbara. Intanto i vostri messaggi continuano naturalmente in pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice un ascoltatore, il colmo sarebbe che arrivasse Draghi e l'Italia va fuori dall'euro, cosa ovviamente impossibile. Mentre Mauri da Ravenna, ciao Roberto, i seggi sono 10 e non 9 per il momento 5 Stelle, si aggiunge Asti, vi ho detto poco fa che Asti, per il momento la situazione ad Asti è sospesa perché ci sono cose ancora da chiarire. A proposito dei vaccini ne parleremo tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio.

dai social media e vorrebbero avere delle risposte. Io penso che il dialogo sia fondamentale. Sa qual è la vera preoccupazione? Che questa azione, che è un'azione coercitiva importante, che ci parla di giudice, che convoca i genitori e poi le multe fra l'altro fino a 7.500 euro, che chi può pagare la multa non vaccina il figlio, chi non la può pagare è obbligato a vaccinarlo. Beh, tutte queste robe, noi abbiamo lì ormai la percezione che incentiveranno l'abbandono ai vaccini. Quindi questa è l'opinione e la decisione del Presidente della Regione Veneto Zaia. A questo punto saluto l'onorevole Davide Faraone, sottosegretario alla salute, bentornato, ben ritrovato Faraone, buonasera. Buonasera a voi. Quindi allora, Zaia diceva noi senza che finora sia stato obbligatorio abbiamo una copertura del 92,6%, anche nelle altre regioni alla fine siamo più o meno sul 90%, quello che dice Zaia dice è fondamentale il dialogo. Immagino, onorevole Faraone, che anche il governo si sarà reso conto che questo comunicare con i genitori preoccupati, al di là dei fautori, dei sostenitori, di quelli che agitano, no, e che vogliono creare il fantasma di certi possibili disturbi o malattie che possono venire con le vaccinazioni, però i timori alla fine ci sono. Come si possono rassicurare queste persone? Il dialogo appunto è fondamentale, come lo si può espletare, Faraone? Ho visto tra l'altro che a partire da domani, lo ricordo anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, 14 giugno sarà attivo il numero di pubblica utilità, che è 1500, proprio 1500, del Ministero della Salute, al quale risponderanno medici esperti del Ministero su dubbi, risposte eccetera. Adesso come possiamo parlare di dialogo e di rassicurazioni, Faraone? Ma innanzitutto c'è una mancanza di informazione, una disinformazione diffusa che purtroppo anche sui social naviga in maniera imperante, ed è una disinformazione che coinvolge anche gli uomini delle istituzioni, perché se un presidente di regione fa una dichiarazione in cui dice di fatto che ricorre rispetto a questo provvedimento facendo riferimento proprio all'esempio della sua regione e indicando nel 92% la stima sui vaccini nella regione Veneto, che ricordo essere una delle regioni che fa più azione di prevenzione, che fa più informazione effettivamente, che agisce anche in maniera innovativa rispetto a questi temi qui, e non sa che invece la soglia minima di salvaguardia rispetto al tema dei vaccini è il 95%, già questo mi preoccupa. Il fatto che lui esalti il 92% della regione Veneto, che è una delle percentuali più basse, ci sono soltanto 6 regioni che riescono a superare la soglia di sicurezza, che è del 95%, ricordo al presidente Zaia, e 8 invece sono sotto la soglia del 93%, fra cui proprio il Veneto, che è il 92%. Quando noi parliamo di soglie di salvaguardia non lo facciamo da politici. Non siamo persone che ci siamo inventate medici, così come spesso cercano di fare o immaginano di fare parlamentari o istituzioni pubbliche che con la sanità non hanno nulla a che fare. Noi ci riferiamo a tutto ciò che ha valore scientifico, e il valore scientifico non lo dà il politico. Io penso che i cittadini si fidino dei medici per i valori scientifici rispetto alla salute dei cittadini. E se i medici hanno anche loro figli e che sono papà, ci dicono fino ad oggi anche l'Istituto Superiore di Sanità Ricciardi è intervenuto in questa direzione, che questi sono i limiti di salvaguardia, che c'è un problema di carenze di vaccini in questo paese, essendo papà e avendo dei figli da vaccinare, io non credo che vogliano iniettare nei propri figli sostanze tossiche che possono provocare delle malattie, perché dietro c'è chissà che cosa. Non c'è un capriccio del Ministero o di medici di voler fare vaccinare per forza i bambini. Io sono convinto che Zaia abbia vaccinato i suoi figli e che li voglia vaccinare, ma io credo che sia corretto anche che i suoi figli vadano a scuola con altrettanti bambini vaccinati, che non siano a rischio contagio nei confronti di altri bambini. Poi, partendo da questa premessa, poi sappiamo bene anche noi che innanzitutto conta l'informazione, la prevenzione, che bisogna sensibilizzare e non obbligare, però non è possibile che ogni volta che c'è un allarme vaccini, è capitato in Toscana questo qualche tempo fa, e crescono enormemente il numero di cittadini che si vanno a vaccinare, addirittura creando anche nelle strutture sanitarie difficoltà. Invece normalmente quando si abbassa la tensione il vaccino diventa una questione di secondo piano. Noi la dobbiamo tenere di primo piano sempre, abbiamo bisogno di intervenire obbligatoriamente con interventi soft e non così enfatizzati come sta apparendo per ora. Il decreto è molto più leggero rispetto a quello che è stato fatto apparire rispetto alle sanzioni, però al tempo stesso con determinazione, perché ci sono dei numeri che ci preoccupano. Chiaro. E prima che diventino allarmanti interveniamo. Chiarissimo, onorevole Davide Farone, ricordo, come dicevo all'inizio, appunto, che a partire da domani il Ministero della Salute, domani 14 giugno, mette a disposizione questo numero di pubblica utilità che potete ritrovare anche poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è 1500, per dubbi, domande, avere risposte insomma dagli esperti del Ministero, dai medici. Ricordo che anche Radio 24 sta facendo un viaggio questa settimana, lo trovate nel giornale radio delle 7 la mattina e poi anche sul sito della radio. Onorevole Farone, intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Tra poco vi voglio parlare di questo caso così importante per come precedente. Vi ricordo molto velocemente che i fatti principali sono le elezioni amministrative di cui abbiamo appena parlato. Dopo il primo turno Renzi frena su Prodi, dice no all'Unione Bis, apre però a Pisa Pia che lancia la kermesse a Roma di Campo Progressista il 1 luglio, Grillo difende Di Maio e poi Gentiloni che esulta sulle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sul PIL 2017. Per la Brexit la prima ministra May ha annunciato in conferenza stampa con Macron, era a Parigi, i negoziati per la Brexit cominceranno la prossima settimana, i tempi non cambiano. A Roma la sindaca Caraggi scrive al prefetto e chiede una moratoria sui nuovi arrivi dei migranti nella capitale. Sanità a Napoli, la procura apre un'inchiesta sulle formiche all'ospedale San Paolo. Dei vaccini abbiamo appena parlato e adesso parliamo appunto di questo caso femminicidio e giustizia. Dicevo, un caso destinato a fare giurisprudenza perché è un precedente importantissimo che dovrebbe far fare un grande balzo in avanti alla giustizia ma anche alla politica, un atteggiamento diverso nei confronti in particolare delle donne maltrattate e perseguitate da mariti, fidanzati ed ex. La Corte d'Appello di Messina ha condannato due PM che lasciarono nella possibilità di agire un marito violento denunciato 12 volte dalla moglie, non una, non due, non cinque volte, 12 volte dalla moglie Marianna Manduca, poi uccisa dall'uomo che non fu fermato, Saverio Nolfo, 10 anni fa a Palagonia in provincia di Catania. La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei PM che avevano gli strumenti per fermarlo e non lo fecero. È stata condannata al risarcimento delle parti civili e anche la presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi secondo i giudici c'erano gli strumenti per fermare l'uxoricida e questa era quindi una morte annunciata, un caso di femminicidio classico e drammatico dove la violenza di un uomo non ha trovato alcun argine nella giustizia. Ne voglio parlare con l'avvocato di parte civile Alfredo Galasso. Professore, buonasera. Buonasera. Si può davvero parlare quindi di una sentenza rivoluzionaria, no? Nel senso che finora le donne denunciavano, poi finivano ammazzate, però nessuno pagava per questo. Sì, direi che questo è sicuramente l'aspetto fondamentale di questa decisione del Tribunale di Messina. Una donna che racconta una morte annunciata la racconta ai carabinieri, quali ne riferiscono alla procura di Caltagirone, e specialmente nell'ultima parte di questa minaccia del marito, cioè gli ultimi 6 mesi prima dell'assassinio, dal giugno all'ottobre del 2007, la procura della Repubblica di Caltagirone è rimasta silente, inerte, mentre secondo il Tribunale di Messina avrebbe potuto intervenire ascoltando quelle che specialmente nelle ultime 2 denunce erano veramente delle richieste di aiuto, delle grida di paura, e non è accaduto. La novità sta intanto nel fatto che è stata condannata la presidenza del Consiglio dei Ministri, voglio precisare questo appunto, perché la legge sulla responsabilità civile dei magistrati stabilisce che non è possibile agire direttamente nei confronti dei magistrati che si assumono responsabili di una colpa grave nella loro condotta, ma lo Stato, in definitiva lo Stato, che in qualche modo è responsabile dell'andamento della giustizia nel nostro paese. Accadeva molto raramente. Questa legge sulla responsabilità civile dei magistrati, introdotta nel lontano 1987, ha avuto sempre una reazione diffidente, sia da parte dei cittadini, della gente comune, che ha visto rarissime volte, si possono contare nelle dita di quattro mani, diciamo, i casi in cui c'è stata una condanna per negligenza o colpa grave dei magistrati, da parte della stessa magistratura, che ha visto a lungo in questa legge una sorta di rischio di attacco all'indipendenza della magistratura. Adesso io credo che sia venuto il tempo di voltare pagina. Ci sono dei giudici di Messina, che hanno condannato al risarcimento dei danni propri colleghi. Questo io credo che sia un esempio che forse anche al di là della magistratura vada seguito nell'ambito di un organismo pubblico cui è affidata, diciamo, la tutela dei cittadini, delle loro libertà. Forse non sempre questo accade, cioè in altri termini una rottura in questa sentenza di una specie di circolo corporativo che va a svantaggio sicuramente dei diritti e delle libertà dei cittadini. Questa è davvero una novità importante, al di là del caso specifico, che pure merita grande considerazione per la tragedia che si è consumata. Che speriamo che non si consumino, che non si consumino più, e che chi sbaglia, insomma, ne risponda. Grazie, avvocato Alfredo Galasso. Grazie, buona serata. Buonasera. Allora, adesso invece parliamo di sport con il nostro Dario Ricci. Siamo un po' in corsa con Ronaldo, ecco, che ha parlo in piedi, che ha problemi fiscali, convocato all'ultimo istante. Certo, sì, Ronaldo ha problemi fiscali, come già li ha avuti Messi, accusato dalla Procura di Madrid di aver evaso il fisco e il diritto d'immagine per quasi 15 milioni di euro. Rischia teoricamente da 1 a 7 anni di prigione, ma i tempi sono lunghi e appunto molto teorica. L'altra notizia di giornata è questa clamorosa protesta dei Golden State Warriors, che come sai si sono laureati questa notte i campioni dell'NBA. Ebbene, la squadra all'unanimità ha deciso di non partecipare a quella che è l'abituale visita alla Casa Bianca da parte dei campioni di tutti gli sport di squadra americane. Per boicottare Trump. E quindi proprio sì, protesta anti-Trump, e la novità è proprio nel fatto della compattezza dello spogliatoio dei Warriors. Vedremo come andrà a finire. Grazie Dario Ricci, e con questo proprio siamo in corsissima, ci sentiamo alle 22.